Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Oggi non perdetevi per nessuna ragione questa puntata, perché vi spiegheremo per filo e per segno come approfittare al massimo dell'opportunità di studio e tirocinio in Europa e fuori dall'Europa. Lo faremo con una vera esperta, una giovane studentessa che in soli 3 anni ha fatto il pieno di esperienze formative nel vecchio continente e in Sud America, prima di approdare a Madrid, in Spagna, dove si trova ora. Primo appuntamento mensile con Federico Fabiani e le sue sempre puntualissime segnalazioni di opportunità in Europa e nel mondo all'interno di Toolbox. Alessio Romeo di Face for Job ci spiegherà anche oggi quali sono le offerte di impiego del momento a livello globale, per consentirvi di restare sempre aggiornati sui trend da seguire. E in chiusura andremo a intervistare un'organizzazione che in Francia riunisce tutte le diverse entità associative italiane oltre Alpe. Grazie a loro vi potremo fornire importanti consigli su come pianificare in futuro un espatrio a Parigi e dintorni. Siamo pronti a fare rotta verso Madrid. La Spagna come punto di partenza della vostra prossima avventura formativa? Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva da una ricerca del portale LinkedIn, secondo cui in tutto il mondo le persone intendono trovare opportunità che permettano loro di perseguire le proprie passioni, trovare un equilibrio tra vita professionale e privata e poter contare sulla sicurezza del lavoro. Nella valutazione della percezione della disponibilità di opportunità sul mercato, l'Italia ha purtroppo ottenuto il punteggio più basso a livello mondiale, 22esimo posto, e rispetto alla fiducia nel successo il bel paese si è classificato al 21esimo posto a livello mondiale, penultima posizione. Prosegue la collaborazione di Toolbox con il portale Scambi Europei. Ogni 2 settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Sentiamo allora subito cosa ha da dirci Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate da Scambi Europei. Il Parlamento Europeo, attraverso le borse Schuman, offre 400 stage retribuiti presso le proprie sedi di rappresentanza in tutte le capitali europee. La durata di questi stage è di 5 mesi e l'inizio è a ottobre. Gli ambiti sono vari, si va dalla comunicazione, economia e finanza, infrastrutture e logistica, giurisprudenza, relazioni internazionali, amministrazione, lingue e traduzioni e informatica. I requisiti per partecipare a questi stage sono quelli di avere un diploma universitario, possedere le competenze linguistiche richieste dalla singola offerta e non aver già lavorato per più di 2 mesi consecutivi in una istituzione o in un organo dell'Unione Europea. La scadenza per inviare le candidature è il 30 giugno. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, offre moltissimi stage nelle sue sedi di Roma e in tutto il mondo. Sono rivolte a studenti o neolaureati che non abbiano superato i 30 anni e riguardano vari settori, dalle scienze agrarie forestali alle politiche pubbliche, le risorse umane e la comunicazione. I candidati devono essere neolaureati o studenti in un settore rilevante per la missione e il lavoro della FAO. Devono avere buone capacità di lavorare in team, buone capacità di comunicazione e una buona conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali FAO, tra inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese o russo. La scadenza per le candidature è il 31 luglio. Il CEDEFOP è l'agenzia europea che promuove lo sviluppo della formazione educativa e professionale all'interno dell'Unione. Attualmente l'agenzia offre vari stage retribuiti della durata di 9 mesi presso la sua sede di Salonicco, in Grecia. I tirocinanti svolgeranno attività negli ambiti di pedagogia e formazione, giornalismo e comunicazione, amministrazione e gestione di archivi, economia e finanza. Per candidarsi è necessario essere laureati presso un'università o essere in possesso di un titolo di studio equivalente, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e non aver già beneficiato di un tirocino presso un'altra istituzione o organismo dell'Unione Europea. La retribuzione mensile è di circa 1000 euro, e la scadenza per le candidature è il 30 giugno. L'ambasciata italiana a Seoul offre sostegno finanziario tramite borse di viaggio in Corea del Sud destinate a ricercatori italiani under 35. Le borse consentiranno di svolgere un periodo di studio in una o più strutture di ricerca in Corea del Sud per stabilire collaborazioni durature tra i colleghi dei due paesi. I requisiti sono appunto avere meno di 35 anni, nazionalità italiana ed essere in possesso di un dottorato o PhD. La scadenza per le candidature è il 30 giugno. Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info. Bene, è il momento di incontrare la testimone della settimana. Si tratta di una studentessa 26enne, architetto di formazione e attualmente di stanza a Madrid, in Spagna. Martina, negli ultimi 3 anni, ha vissuto e lavorato in 2 continenti e 5 paesi diversi. Una stacanovista della mobilità che in mobilità ha vissuto anche questa emergenza pandemica mondiale. Chi meglio di lei può farvi da guida nei meandri della formazione internazionale? Buon pomeriggio, Martina Pestarino. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Una carriera formativa davvero internazionale, la tua, Martina, che passa da un triennio in cui hai visitato ben 2 continenti e 5 diversi paesi. Quella che oggi offriremo ai nostri ascoltatori è una guida pratica per provare a ripercorrere il tuo percorso con tanti consigli utili. Prima però riesci a farci un riassunto molto concentrato di questi tuoi anni globali. Dove sei stata? Allora, io in questi anni ho vissuto tra Europa e l'America Latina e, diciamo, andando per ordine, ho vissuto prima in Austria, a Vienna, poi in Brasile, a San Paolo, in Portogallo, a Lisbona, per poi tornare in Sud America, questa volta in Perù, a Lima e infine in Spagna, a Madrid. Nello specifico cosa hai fatto come studentessa, come tirocinante? Allora, a Vienna e a San Paolo ho terminato gli esami universitari. A Lisbona invece ho lavorato come tirocinante per un semestre. A Lima invece mi sono recata per finire gli studi, quindi fare la mia tesi magistrale, ho lavorato anche gli ultimi mesi e poi sono andata a Madrid per un tirocinio post laurea. Piccolissima parentesi, in Italia cosa hai studiato? Io sono architetto, ho una laurea magistrale che ho conseguito all'Università degli Studi di Genova. E attualmente hai detto sei a Madrid, appunto, ancora come tirocinante, giusto? Sì, mi trovo a Madrid con il programma Erasmus Traineeship nello specifico. Allora, prima di cominciare con i tuoi consigli, abbiamo una domanda di cronaca da farti. La vita che hai vissuto in questi mesi a Madrid dai tempi del coronavirus, immagino anche a livello professionale, il tirocinio non sia stato semplice. No, effettivamente no, perché prima lavoravamo in uno spazio di co-working, ad oggi invece continuiamo a lavorare in smart working, però devo dire che in realtà la cooperativa in cui sto lavorando già prevedeva delle modalità di lavoro a distanza, quindi non è stato particolarmente complesso. A Generazione Mobile, @radio24.it, hai mandato 3 rapide considerazioni su cosa questo triennio ti ha regalato. Ce le elenchi molto molto rapidamente. Allora, innanzitutto ho imparato 3 lingue, ovvero ora parlo piuttosto fluentemente l'inglese, il portoghese e lo spagnolo. Poi mi sono inserita in 3 sistemi universitari lavorativi totalmente diversi, ovvero quello europeo per Lisbona e Madrid, ma anche quello brasiliano e peruviano, che sono 2 mondi comunque molto molto diversi, e a livello professionale mi ha portato veramente tantissimo. E poi mi sento anche di dire che in generale ho sviluppato un'alta capacità di adattamento a culture e contesti diversi, ho superato anche quello che si suol dire un po' il terrorismo psicologico che viene fatto ad una ragazza che parte da sola per Latino America. Sono insomma tutte esperienze che continuo a voler ripetere. E usiamo questi tue considerazioni come trampolino di lancio per consigli pratici a chi vuole studiare o fare tirocini all'estero. Primo punto in assoluto, a chi rivolgersi, a chi fare anche riferimento? Allora, io personalmente mi sono rivolta per tutte le mobilità allo stesso ufficio, che è un ufficio Erasmus e relazioni internazionali della Scuola Politecnica della mia università. E poi c'è un referente specifico di ogni meta, in realtà per me era sempre lo stesso professore, però insomma è così circa che funziona il sistema. E più in generale consigli anche dei siti dove cercare opportunità all'estero? Io non ho fatto veramente di riferimento a dei siti specifici, diciamo. Sono stati, secondo me, più importanti gli incontri formativi che sono stati organizzati dall'università stessa, perché lì ci sono anche studenti che magari sono appena tornati dalle mobilità all'estero e che danno consigli e sono veramente molto disponibili anche nel momento in cui si fanno domande più specifiche. Una volta attivato il contatto, dovendo passare all'iter burocratico vero e proprio, come procedere? Partiamo proprio col tradizionale Erasmus Traineeship, da dove cominciare? Allora, bisogna iniziare innanzitutto dalla ricerca previa di uno studio dove si intende svolgere il tirocinio, e normalmente ci sono o degli studi già convenzionati in una lista oppure si possono individuare di maniera indipendente. In entrambi i casi ho scelto poi degli studi che sono fuori dalla lista, ed è quindi uno studio privato a Lisbona, una cooperativa a Madrid dove sto lavorando adesso, però è importante muoversi in anticipo perché ci sono degli studi che impiegano comunque 1 settimana e 10 giorni a rispondere, bisogna avere anche il tempo di compilare il documento dove poi vengono stabiliti i fasi e obiettivi del tirocinio. È più complicato anche per questioni burocratiche lo spostamento in Sud America, ma anche qui ci sono opportunità da cogliere. Di che tipo di borse è possibile usufruire? Nel mio caso, per l'università offriva due diversi programmi di mobilità. Il Fondo Giovani aveva mete in Nord e Sud America e con quella borsa sono andata in Brasile, e poi c'è anche il programma Finda, che però prevede solo mete per l'America Latina. E a livello burocratico è complicato spostarsi in Sud America? Non è l'Europa, chiaramente, non è l'Unione Europea. Ma certo, però in realtà l'iter, almeno dal punto di vista universitario, è molto simile a quello dell'Erasmus per fini di studio. C'è un documento che si chiama, diciamo, l'accordo di apprendimento, che poi cambia leggermente per ogni università, però in realtà normalmente anche meno restrittivo di quello dell'Erasmus tradizionale nel momento in cui bisogna far riconoscere gli esami al rientro in Italia, perché comunque viene anche considerato il fatto che l'università di destinazione appartiene ad un contesto culturale diverso e con distinte modalità di insegnamento, apprendimento, quindi è più flessibile. Che ambienti di studio hai trovato in Brasile e in Perù, anche a livello di sistema proprio universitario? Allora, in Brasile, insomma, le lezioni sono totalmente diverse da quelle che sostenevo, insomma, in Italia. La lezione non è frontale, spesso è svolta in cerchio, con dibattiti tra gli studenti, in cui sono molto attivi, il professore risulta quasi essere il moderatore, e l'ambiente è proprio un fermento politico e di sperimentazione poi tecnica e artistica, in particolare nel caso di architettura. E invece in Perù, l'università era un campus, almeno io mi sono recata come ricercatrice per tesi, e in questo campus mi venivano offerti dei centri di ricerca con strutture e metodologie davvero d'avanguardia, e quindi sono stata seguita poi da centri di ricerca specifici su spazio pubblico e pianificazione urbana, che era quello che poi interessava a me. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Martina Pestarino, 26enne tirocinante di stanza a Madrid. Con Martina abbiamo intrapreso un viaggio sulle onde di Radio 24, lungo un triennio e attraverso due continenti, per mostrarvi come sia assolutamente possibile concentrare in poco tempo una grande densità di esperienze formative in grado di cambiarvi la vita. Andiamo allora all'ascolto. Generazione Mobile. Parlando invece di tirocinio e ambienti di lavoro, come ti sei trovata professionalmente in Europa, tra Spagna e Portogallo? Quale paese ti ha dato di più? Allora, professionalmente io credo Madrid, assolutamente dove sono adesso, per il fatto che lo studio è organizzato come una cooperativa e da subito sono stata inserita con il proposito di giungere a fine tirocinio ad avere lo stesso potere decisionale degli altri membri. Ovviamente i limiti sono poi dati dal fatto di avere una minore esperienza lavorativa, però in questo senso sono davvero proprio seguita a livello più didattico. Mentre in Portogallo ho avuto comunque un ruolo rilevante anche nelle fasi di progettazione, non sono stata, diciamo, dedicata solo alla produzione di materiale grafico come può succedere normalmente con i tirocinanti. E ho avuto l'opportunità di seguire il progetto di un'installazione architettonica per una mostra d'arte nella Biblioteca Nazionale a Lisbona, e ho anche fatto parte di altri team di progettazione per concorsi. Consigli di vita pratica, purtroppo dobbiamo riassumerli in modo estremo perché abbiamo poco tempo, ma partirei dal Sud America per quanto riguarda le formalità burocratiche del poter vivere, potersi trasferire. È complicato tra Perù e Brasile? Allora, in Brasile è stato più complicato perché bisogna arrivare con il visto da studente, non turistico, e ha delle tempistiche piuttosto lunghe, bisogna avere tutti i documenti in originale, quindi aspettare anche quelli dall'università brasiliana insomma, di riceverli. Però per il Perù invece è stato più semplice perché si può già entrare con il visto turistico e poi fare quello che si dice il cambio di calidad migratoria, ovvero passare da visto turistico a visto studente. Ma una volta là. Più E trovare casa tra Madrid e Lisbona, qual è la città più semplice, in una battuta? semplice a Madrid, probabilmente anche solo per il carattere delle persone che sono più disponibili ad aiutare nel momento in cui si cerca casa. Ci raggiunge ora in linea Maria Simeone, anche lei un'esperta di periodi di studio e tirocinio all'estero, nonché già compagna di studi di Martina. Buon pomeriggio, Maria. Buon pomeriggio. Tu rispetto a Martina hai una traiettoria formativa più francofona per certi aspetti. In brevissimo ci racconti il tuo percorso di studi e tirocinio nell'ultimo triennio? Allora, sì, io ho anche studiato architettura nella facoltà di Genova e negli ultimi 3 anni ho svolto un periodo di studi a Ville de Québec, quindi nella parte francofona del Canada, per 4 mesi, un Erasmus all'École La Villette di Parigi per un semestre, anche io ho svolto un tirocinio a Lisbona, sempre di un semestre, una ricerca tesi alla PCP di Lima e infine adesso sono ritornata a Parigi per il tirocinio post laurea. Parliamo di opportunità formative in Quebec, come trovarle e cosa aspettarsi? Allora, anche io come Martina l'opportunità di studiare in Canada l'ho trovata grazie alla mia università e appunto partecipando ad incontri organizzati dall'università sulle opportunità di studiare all'estero. Sono partita con il programma Fondo Giovani e mi sono ritrovata a studiare in un campus molto ben organizzato e con servizi molto all'avanguardia, dove appunto erano molti servizi a disposizione degli studenti, anche degli studenti in scambio. I professori sono stati sempre molto disponibili e preparati e una cosa che ho apprezzato molto del modo di condurre le lezioni in Canada è stato che le classi erano sempre da 10 a 25 persone, quindi per tutto il semestre sono stata sempre seguita costantemente da professori e assistenti. E come sei approdata invece a Parigi? Come ti sei anche trovata nello studio? A Parigi ci sono arrivata grazie al programma Erasmus e rispetto all'università in Italia ho riscontrato alcune differenze, soprattutto nel modo di approcciarsi all'architettura. È un approccio molto più teorico e artistico e ho deciso di sfruttare appunto questo carattere della scuola francese per seguire corsi di allestimento e scenografia, appunto allestimento museale, e ho avuto quindi l'occasione di toccare temi che in Italia non avevo mai avuto la possibilità di affrontare. Bene, il tempo purtroppo è un po' tiranno, per cui dobbiamo salutare Maria Simeone. Ti facciamo ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera e abbiamo la nostra domanda di rito per Martina Pestarino. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Innanzitutto di tenere sempre d'occhio tutti i siti e gli incontri formativi forniti dall'università, perché le opportunità sono sempre molte e non bisogna poi lasciarsi spaventare dagli iter burocratici che sembrano infiniti o dal timore di uno shock culturale, specialmente per le esperienze oltreoceano, perché alla fine ne vale sempre la pena, non si ha molto da perdere, anzi c'è sempre qualcosa da guadagnare dal punto di vista di esperienze formativo. Lasciamo allora la nostra testimone della settimana per spostarci alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna oggi a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora subito cosa ha da dirci. Dedichiamo questo primo appuntamento di giugno ad un'analisi dei trend lavorativi dedicato a un settore che più di altri ha subito l'effetto Covid in termini di crisi lavorativa, ma che altrettanto in modo esplosivo vive il rimbalzo post-lockdown a livello global. Parliamo del settore del fast food ed in particolare andiamo rapidamente ad esplorare decine di migliaia di opportunità che tornano ad offrire in tutto il mondo, le prime 5 principali catene. Parliamo di Subway con 45.000 ristoranti sparsi ovunque, quindi McDonald's con 37.000, Starbucks 25.000, KFC 20.000 e chiude il quintetto Burger King con 15.000 ristoranti. Tutte le pagine careers presentano differenti sezioni tra accademia di formazione per neopraticanti più o meno junior, restaurant opportunity e corporate opportunities. Chiaramente le più ricche di vacanze sono le sezioni dedicate ai ristoranti che riaprono a tutti gli effetti, riassorbendo dipendenti pregressi ma cercando di nuovi in ogni ambito, da cameriere ad addetto pulizie fino al reparto cucina o restaurant manager. Lì abbiamo davvero migliaia di opportunità in tutti e 5 colossi che alla fine cubano quasi 150.000 sedie ristorative sparse in ogni angolo del globo. Parliamo pertanto di centinaia di migliaia di posti di lavoro totali. Ma sono ancora più interessanti le opportunità specifiche dedicate alla sezione corporate, che sono ovviamente solo decine e nelle sedi degli headquarter aziendali o in altre città con importanti distaccamenti degli uffici. Vediamoli più nel dettaglio. Allora, Subway con headquarter in Milford, Connecticut, presenta 28 offerte di lavoro tra la sede e altre città come Atlanta, Miami e Louisville. Parliamo di franchise business consultant o partner, financial director, vice president digital and consumer technology, software engineer, ma anche figure da poter svolgere in remoto come market integration o leasing manager. McDonald's con headquarter in Chicago presenta 21 opportunità, con qualcuna anche in California, quasi tutte in ambito IT come senior data infrastructure, release engineer e sviluppatori, ma anche opportunità in ambito accounting auditing come tax international planning. Starbucks, anch'essa americana di Washington, ne offre invece 134 di vacanze in ambito corporate, di cui 51 come retail leadership, 42 in ambito IT, 18 manufacturing e distribution e 7 supply chain management. KFC e Burger King invece cambiano stile ed impostano la sezione careers diversamente. KFC del Kentucky presenta un motore di ricerca che si basa sulla scelta della location. Infine Burger King, con headquarter in Florida, molto simile all'approccio KFC, offre posizioni come team member, assistant manager, restaurant manager e, compilando l'application form con le preferenze del caso, si verrà ricontattati laddove matchino le desiderate. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Proseguiamo il nostro viaggio tra le associazioni di italiani oltre confine, che possono rappresentare un perno importante su cui fare affidamento per approdare in un paese straniero. Oggi vi portiamo in Francia per raccontarvi l'esperienza di CAP Parigi, coordinamento associativo che punta a recensire gli italiani recentemente trasferitisi oltre Alpe al fine di accrescere la visibilità in ambito professionale, scientifico e culturale. Con noi Luigi Apollonio, presidente di CAP, il coordinamento delle associazioni dei professionisti italiani a Parigi. Lo scopo di questo CAP è quello di coordinare e recensire tutti gli italiani che si sono recentemente trasferiti in Francia e in particolare con il Comites intendiamo creare sinergie anche con gli esponenti dell'immigrazione tradizionale. Tra le attività che proponete ci sono i contatti con le associazioni a voi collegate per trovare opportunità di lavoro in Francia. Ci può rapidamente spiegare come lo fate? Dunque, allora, in sostanza queste 10 associazioni che fanno parte del CAP cercano di costruire una rete delle reti degli italiani all'estero. E come noi cerchiamo di realizzare tutto questo? Noi abbiamo realizzato un'agenda condivisa degli eventi di tutte le associazioni dei professionisti italiani qui a Parigi e quello che cerchiamo di fare è quello di mettere in rete gli eventi di un'associazione e di far partecipare tutti gli associati delle nostre associazioni agli eventi delle altre. E in particolare lo scopo è quello di mettere in contatto i giovani che arrivano qui a Parigi, sia come studenti universitari, come studenti Erasmus o anche dottorandi, con tutti i professionisti che operano qui a Parigi. E quindi lo scambio di esperienze tra chi arriva e chi già lavora è per noi, diciamo, uno degli scopi principali della nostra associazione. Questo è molto interessante, ma voi fate anche delle giornate o comunque degli incontri per spiegare un po' come inserirsi in Francia grazie anche a chi già vive lì. Nello specifico? Con il consolato, per esempio, ci sono diverse giornate, loro le chiamano di inserimento professionale, una è a gennaio, l'altra probabilmente sarà verso aprile, e in pratica cosa facciamo? Noi incontriamo gli studenti universitari, gli Erasmus e i dottorandi nel consolato proprio per spiegare loro quali sono le opportunità professionali di formazione qui a Parigi, come si ricercano gli stage presso le aziende parigine, quali sono le aziende italiane che possono magari avere delle opportunità di lavoro per questi giovani e poi cerchiamo anche appunto di invitare delle personalità di spicco italiane o franco-italiane qui a Parigi affinché possano parlare con i giovani e dare loro una testimonianza di quello che si fa qui a Parigi nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni potete scrivere all'email cap.paris73@gmail.com. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci. generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero.